soffrire, cammina e parla sole, se io sta così, l'amore è così pazzo e non si può spiegare, l'essere umano è strano. Capo non sbaglio più. Più non esisto un amore. Pure se io voglio esco sola. Più non esisto un amore. Chi voglio solo che stai buona. Amore si è carnato. Capo nos baile que o, capo nos baile que o.